La voce è il cuneo che rompe il silenzio che c'è là fuori e il silenzio che c'è anche dentro il deserto digitale. La voce. Mi sono chiesto se ha senso leggere poesia nei giorni della pandemia. E qualcuno potrà pensare che ci sono cose più urgenti, non c'è dubbio, però un amico che ascolta di tanto in tanto Radio Virus mi ha scritto qualche giorno fa questa frase: la voce è il cuneo che rompe il silenzio che c'è là fuori e che rompe anche il silenzio che c'è nel deserto digitale nel quale ci troviamo in questi giorni. Un deserto denso di esperienze, ma senza corpi e senza voce. Ecco, Cavafis, gli uomini conoscono il presente, il futuro lo conoscono gli dèi, unici a possedere appieno la saggezza. Delle cose future i saggi avvertono, quelle imminenti ma intenti, come sono i gravi studi, il loro udito a volte è disturbato. Colgono l'eco segreta di ciò che sta per accadere, l'ascoltano devoti, mentre fuori in strada il popolo non sente proprio nulla. Cavafis, sono parole di un poeta greco, e parole che hanno a che fare con il senso del enunciare, dell'emettere segni, del dire parole, la profezia è ciò di cui parla qui Cavafis, i saggi, lui dice, e le cose imminenti. Gli uomini conoscono il presente, il futuro lo conoscono gli dèi, unici a possedere appieno la saggezza. Vabbè, lasciamo perdere gli dèi che sanno tutto e poco ce ne importa. E gli uomini conoscono il presente, quello che stiamo vivendo. E però, aggiunge Cavafis, delle cose future i saggi avvertono, quelle imminenti. L'imminenza, ciò che sta per accadere, e però l'imminenza è leggibile nella immanenza. Quello che sta per accadere lo possiamo leggere in quello che è adesso, perché nell'adesso, nel presente, nella condizione presente, nella fitta composizione presente del mondo, del sensibile, del percepibile, in quella composizione ci sono scritte le linee di tendenza che vanno a costituire l'imminente, ciò che avverrà fra un attimo, fra un giorno, fra un anno, fra un secolo. L'imminente, ciò che sta per, è scritto dentro ciò che è e ciò che noi percepiamo. Delle cose future i saggi avvertono quelle imminenti, ma intenti come sono ai loro studi, il loro udito a volte è disturbato. Talvolta, dice Cavafis, non siamo capaci di sentire, di percepire, di ascoltare, di udire, di vedere i segni con sufficiente evidenza, chiarezza, trasparenza, lungimiranza, luccicanza, da poterne leggere l'imminente. Cavafis ha parlato, ora facciamo parlare Rilke, Rainer Maria. La creatura, qual siano gli occhi suoi, vede l'aperto. Soltanto gli occhi nostri sono come rigirati, posti tutti intorno ad essa trappole ad accerchiare la sua libera uscita. Quello che c'è di fuori lo sappiamo soltanto dal viso animale, perché noi, un tenero bambino, già lo si volge, lo si costringe a riguardare indietro, a vedere figurazioni soltanto e non l'aperto che è sì profondo nel volto delle bestie, libero da morte. Questa la vediamo noi soli, il libero animale ha sempre il suo tramonto dietro a sé e dinanzi a Dio. E quando va in eterno come vanno le fonti. Noi non abbiamo mai dinanzi a noi, neanche per un giorno, lo spazio puro dove sbocciano i fiori a non finire. Sempre c'è mondo. E mai quel nessun dove senza negazioni, puro, non sorvegliato, che si respira, si sa, infinito e non si brama. Uno, da bimbo, ci si perde in silenzio e ne è scosso, o un altro muore e lo diventa. Perché quando è vicina la morte non si vede, guardiamo fissi fuori, forse col grande sguardo degli animali. Gli amanti, se non ci fosse l'altro che preclude la vista a quello spazio puro, son vicini e stupiscono, come per svista è stato aperto loro dietro l'altro, ma oltre l'altro nessuno può andare, ed ecco, e tutte e due tornare mondo. Sempre rivolti al creato, in essi vediamo soltanto il rispecchio del libero da noi stessi oscurato, o che una bestia muta alzi gli occhi e guardi tranquilla attraverso di noi. Ecco quel che si chiama destino, essere di rimpetto e null'altro, e sempre di rimpetto. Rilke, ottava elegia duinese. Rilke scrive in questa maniera che al tempo stesso contratta e allusiva e che quasi si contorce, eppure si fa leggibile senza bisogno di interpretazioni. E questa, in fondo, questa poesia, questa ottava elegia, proprio è un testo sulla interpretazione. Lui dice: noi non siamo capaci, noi umani, non siamo capaci di guardare l'aperto, ciò che abbiamo di fronte, perché sempre sovrapponiamo figurazioni. Noi, un tenero bambino, già lo si volge, lo si costringe a riguardare indietro e vedere figurazioni soltanto e non l'aperto che si profondo nel volto delle bestie. Noi subito il piccolo bambino lo induciamo a vedere le figurazioni, le forme, non il divenire, non la metamorfosi. Non l'uovo tantrico di cui parlano Deleuze, Guattari, Émile Platon. Non questo divenire noi vediamo, dice Rilke. No, noi vediamo la forma e questo ci impedisce di cogliere l'aperto. Noi non abbiamo mai dinanzi a noi, neanche per un giorno, lo spazio puro dove sbocciano i fiori a non finire. Sempre c'è mondo e mai quel nessun dove senza negazioni, puro, non sorvegliato, che si respira, si sa, infinito e non si brama. noi abbiamo dinanzi il mondo, non lo spazio puro dove sbocciano i fiori a non finire. Ecco, anche questo Rilke, questa ottava elegia di Rainer Maria Rilke, parla dell'interpretazione e al tempo stesso parla, risponde alla domanda, perché la poesia? Perché la poesia è, per l'appunto, la tensione, lo sforzo più intenso che noi conosciamo per poter vedere l'aperto, per poter cogliere nel presente le tensioni che vanno verso l'imminente, ciò che sta per avvenire. Ecco, la poesia è questo continuo cancellare ogni memoria delle forme per reinventare la forma a partire dall'esperienza senza parole, senza configurazioni, senza concetti o preconcetti. Ancora Rilke: se ci fosse coscienza della nostra specie, nel sicuro animale che pur per altra via ci viene incontro, lui ci rigirerebbe col suo andare, ma per lui l'essere suo è infinito, è sciolto e senza sguardo sul suo proprio stato, puro come il suo sguardo sull'aperto. E dove noi vediamo futuro, lui vede invece il tutto, e in quel tutto se stesso è salvo sempre. Rilke, ma ecco, ho letto Cavafis e Rilke per giustificare questo mio delirio, questo mio sproloquio, per giustificare la poesia nei tempi pandemici. La poesia non è consolazione, è un accompagnamento che precede il senso e dunque lo forma, e dunque lo rende possibile, lo rende percettibile. La poesia non è interpretabile, o sì, piuttosto, è infinitamente interpretabile, ecco, e dunque è nel delirio. Il grande milanese che morì nella primavera del 2016 e chiese che per 5 anni non si parlasse di lui perché era un tipo spiritoso, e Umberto Eco, non so se avete notato che quando è morto Umberto Eco, subito dopo è come se si fosse spento il lume della ragione. forse l'ho anche immaginato. È come se dopo il marzo 2016, quando lui se n'è andato, quello era febbraio, marzo, mi ricordo quel castello sforzesco con una lunga fila di milanesi, per lo più anziani, ma non soltanto, che andavano a rendere onore a Umberto Eco, a questo. Me lo ricordo, era una giornata piovigginosa, io sono rimasto lì, chissà perché sono andato a Milano, non avevo nessuna ragione di farlo, non sono uno di famiglia, e perché sono andato lì? Ma perché ho avuto la sensazione che stesse accadendo qualcosa, come se lo scomparire nella mente di Umberto Eco fosse lo smarrimento della ragione. Dopodiché è venuto il Brexit, Donald Trump ha vinto le elezioni, dopo da allora si è scatenata la l'oscurità si è come entrati in un periodo di oscurità che per il momento continua. Bisogna forse aspettare i 5 anni che Eco chiese per uscire dall'oscuro, non lo so, non è di questo che voglio parlare, voglio dire cose senza capo né coda. E perché, ecco cosa dice Eco, dice nel suo libro che per me è il più bello, che si chiama I limiti dell'interpretazione, un libro del 1991 se mi ricordo bene, e dice: l'idea che i segni letterari siano un'organizzazione di significanti che anziché servire a designare un oggetto designano istruzioni per la produzione di un significato. Lui suggerisce questa idea. I segni letterari, la poesia, lui usa queste espressioni professorali, io non sono un professore e mi esprimo più terra terra. La poesia è una organizzazione di significanti che, anziché servire a designare un oggetto, designano istruzioni per la produzione di un significato. La poesia non ti dice niente, ti impara a fare le mosse, ti impara, ti insegna a fare le mosse. La poesia ti impara a fare le mosse, a muovere così, cos'ha? Il cervello, la lingua, la parola. Perché, chissà se la ritrovo, l'altra citazione di Eco che mi interessava, perché come interpretare la poesia, io mi chiedo. Interpretare, cioè far emergere un significato. Ecco, il mondo, dice Umberto Eco a pagina 47 del libro I limiti dell'interpretazione, il mondo è frutto di un errore. Ecco, noi dunque, secondo il pensiero gnostico, ma è una bella frase questa, no? Il mondo è frutto di un errore. Origina, dice il saggio induista, dice che il mondo, la nostra storia, il nostro mondo, non è che il sogno del Dio nell'attimo in cui si addormenta. Per un attimo si addormenta e sogna tutto quello che ci è accaduto nelle migliaia di anni ed ora, e sogna tutto questo fino a quando l'interpretazione non diventa capace di cogliere il significato. Il significato, come dice Eco in una citazione che sto cercando senza riuscire a trovarla, ma chi se ne frega, tanto me la ricordo. Il significato non è qualcosa che noi possiamo andare a trovare da qualche parte, non è ciò che l'interpretazione deve portare ad emergenza. Il significato è per l'appunto questo processo del costruire, così come un'onda dopo un'altra onda dopo un'altra onda, nel corso del delirio, nel corso di questo processo che ci permette di svolgere la poesia, e poi torniamo a Rainer Maria Rilke, alle elegie duinesi. Angelo, ma ci sarà una piazza che noi non conosciamo dove, su tappeto indicibile, gli innamorati che qui non arrivano mai all'adempimento potranno mostrare le alte, ardite figure dello slancio del cuore, le loro torri di gioia, le scale che da tanto, dove sempre mancava terreno, s'appoggiavano soltanto l'una alle altre tremanti. Oh, poterlo, dinanzi a innumerevoli taciti morti spettatori d'intorno, le getterebbero allora le loro ultime monete, sempre risparmiate, sempre nascoste, che noi non conosciamo, le monete sempre valide della felicità, la coppia che sorride finalmente, davvero, su tappeto placato. Ci sarà una piazza che noi non conosciamo? Dove gli innamorati, che qui non arrivano mai all'adempimento, potranno mostrare le alte ardite figure dello slancio del cuore, le loro torri di gioia, le scale che da tanto, dove sempre mancava terreno, s'appoggiavano soltanto l'una all'altra tremanti. Oh, poterlo! Dinanzi a innumerevoli taciti morti, spettatori d'intorno, le getterebbero allora le loro ultime monete, sempre risparmiate, sempre nascoste, le scale che si appoggiano una sulle altre, e sempre mancava terreno. Ecco, questo è il processo di interpretazione. Un susseguirsi infinito di scale che si appoggiano l'una sulle altre, dove sempre mancava terreno.